Adesso io proporrei di passare subito alla successiva relazione del professor Carlo Ghisalberti, il quale ci porterà appunto l'esperienza italiana in questo problema delle minoranze. Mi sia consentito anzitutto ringraziare l'Istituto Storico Italo-Tedesco di Trento, nella persona del professor Prodi, suo direttore, per avermi fatto l'onore e il piacere al tempo stesso di venire qui in mezzo a voi a riferire su un tema che è di tanto interesse. E mi sia consentito di unirmi all'espressione di augurio per la salute del professor Corsini, che per primo ha avuto l'idea di questo nostro convegno, e di esprimere pubblicamente qui la speranza che possa essere presto tra noi a confortarci della sua presenza nei nostri incontri. La mia relazione è in certo senso una relazione di premessa, in quanto qui il relatore che ha precedentemente parlato ha mostrato nel suo brillante esposto come la Italia e la Francia fossero in realtà due nazioni nelle quali il problema delle minoranze venisse taciuto o addirittura negato nel tempo. Riferendomi proprio a questa sua affermazione, io cercherò in questo mio dire di spiegare le ragioni per le quali l'Italia liberale era giunta alla conclusione che non esistesse un problema di minoranze nel suo stato risorgimentale e nello stato post-risorgimentale. Questo è appunto l'assunto della mia relazione. Mi sia consentito di leggere adesso. In Italia, scarsa o addirittura quasi nulla è stata l'attenzione degli esponenti della politica e della cultura alle minoranze etniche, sia precedentemente sia successivamente al compimento del Risorgimento. Né i moderati, infatti, più dichiaratamente legati ad una visione dinastica e sabauda dei possessi territoriali dello Stato, originariamente subalpino, quindi italiano, né i democratici, prevalentemente arroccati sull'idea di una Repubblica una e indivisibile, secondo l'immagine franco-rivoluzionaria del tardo Settecento, si posero mai seriamente il problema delle minoranze. Ed anche negli assertori di soluzioni federali o confederali, e il pensiero corre al cattaneo, e cioè al personaggio più vicino alle tematiche regionali o particolari, la condizione delle popolazioni qualificabili come minoranze etniche parve restare al margine degli interessi effettivi. Al più, le tematiche linguistiche, le questioni del rapporto tra lingue e dialetti sembravano talvolta costituire oggetto di riflessione, non però perché da questa potesse scaturire un articolato discorso sui diritti linguistici delle minoranze politicamente considerate come parti dell'ordinamento statale, ma solo in funzione del complesso e dibattutissimo tema della fondazione della natura della lingua nazionale, identificata come elemento portante del tessuto connettivo della patria italiana, tale quindi da non poter in nessun caso essere pretermessa di fronte alle parlate locali nella sua natura ufficiale. Eppure queste minoranze erano largamente presenti sia negli ordinamenti statali preunitari, si pensi allo Stato sabaudo nella sua propaggine transalpina, popolata da savoiardi francofoni, o alla Repubblica di Venezia, egemone ancora alla fine del Settecento dell'area friulano orientale o di quella isontina, o più ancora oltre l'Adriatico sulla costa dalmata, in terra popolata da genti slave per lo più di lingua slovena e serbo-croata. Ed erano anche più tardi presenti nello Stato unitario, pur se ridotte notevolmente di numero e quindi meno incidenti sul piano politico, almeno fino al 18, data la cessione di Nizza e della Savoia alla Francia dopo la guerra del 59 e la caduta dell'egemonia civile e culturale italiana in Dalmazia in conseguenza della fine della Serenissima e del successivo sorgere della potenza austriaca nell'Adriatico orientale. Nella concezione che dello Stato nazionale e della cittadinanza allora si avevano, Però non era la questione della scarsità numerica e della pochezza del ruolo ad impedire un qualsiasi riconoscimento della peculiarità e della specificità delle minoranze stesse. Era invece l'affermazione del principio totalizzante e discretivo della cittadinanza, resa criterio valutativo dei rapporti tra il singolo e lo Stato ed elevata nel contempo ad elemento essenziale della costruzione di un ordinamento che per essere unitario non poteva né voleva allora ammettere diversità e peculiarità di alcun genere tra i componenti della sua popolazione e quindi non prendeva in considerazione le varianti etniche pur presenti nelle sue province. L'identità nazionale, base della cittadinanza ed essenza della costruzione statale dell'Italia risorgimentale ed unitaria, era assunta a valore fondante e a motivo ideale e si era connotata in quella che con un certo sforzo concettuale e con qualche approssimazione potremmo definire l'ideologia italiana in senso assoluto ed esclusivo. Il risultato di ciò era la negazione non soltanto della rilevanza politica e giuridica, ma anche della stessa peculiarità di quelle minoranze che, sia pur numericamente limitatissime, specie dopo la cessione di Nizza della Savoia alla Francia e Napoleone III, allora vivevano nello Stato. D'altra parte, va anche considerato come in questa negazione piuttosto decisa non si distinguesse neanche la posizione delle comunità etniche da identificare per l'appartenenza dei loro componenti allo stesso sistema o ambiente culturale, individuato di norma attraverso l'unico particolare idioma da quelli usato all'interno del gruppo d'appartenenza. In un mondo, e quindi per un'ideologia che esaltava la soggettività storica qualificante la nazione nel suo complesso e che la giustificava in nome di un presupposto volontaristico, la mera individualità culturale di piccole comunità etnico-linguistiche non era oggetto di troppo vasta considerazione, anche perché assai scarsa sembrava essere nei loro esponenti la volontà di chiedere il rispetto delle espressioni che ne caratterizzavano la vita ed insieme la loro valorizzazione da parte di uno Stato nel quale sembravano riconoscersi pienamente. Tali comunità vivevano infatti in un ambiente nazionale del quale erano parte integrante e che le sentiva proprie in virtù della comune cittadinanza, considerata dall'ordinamento giuridico statale fonte e base di un'eguaglianza di condizioni che non ammetteva distinzione, o peggio discriminazioni di sorta, tra gli abitanti del regno che ne erano in possesso. Fatto questo, che implicitamente appariva essere al tempo stesso causa ed effetto del disconoscimento pubblico di quelle comunità, la peculiarità e la specificità delle quali sembravano del tutto marginali per una coscienza collettiva, peraltro assai poco proclive a rendersi perfino conto dei problemi, certo assai più complessi, delle stesse minoranze nazionali. All'interno dello Stato italiano, rigidamente considerato come etnicamente omogeneo perché formato da una sola nazione, il problema delle minoranze non sembrava quindi sussistere, anche perché l'immagine volontaristica della nazionalità ben poteva suffragare l'opzione italiana dei valdostani di lingua francese, degli slavi del Natisone e di qualche altro comune isontino, opzione, nell'ipotesi di questi ultimi, testimoniata dal voto nel plebiscito per l'annessione del Veneto dopo il conflitto del 66. Se di minoranze nazionali si parlava, era solo in favore o contro le tesi irredentiste suffraganti la necessità di completare il risorgimento con l'annessione del Trentino e della Venezia Giulia popolati da italiani ancora sotto dominio austro-ungarico. Ma questo era un altro problema, nato dal particolare clima suscitato nell'Ottocento dal risveglio delle nazionalità e quindi dalla formazione di una netta antitesi, dal preciso contenuto etico-politico, tra l'immagine dello Stato nazionale, etnicamente compatto, e quella dello Stato plurinazionale, nel quale vivevano genti appartenenti a differenti etnie. Nella cultura dominante la vita della penisola a quei tempi, e nell'ideologia italiana, che ne era l'espressione politica, lo Stato nazionale appariva l'elemento progressivo, mentre quello plurinazionale un retaggio del passato, destinato a cadere e a finire quando fosse giunto a maturazione il processo formativo delle diverse nazioni che lo costituivano, come sembrava stesse verificandosi anche per quelle dell'Austria-Ungheria, anche a causa dell'irredentismo italiano. Questa era la ragione per la quale la riflessione politica e la scienza giuridica dell'età risorgimentale e post-risorgimentale tendevano ad operare ed anche a risaltare l'identificazione tra Stato e nazione italiana realizzata con l'unificazione e con la proclamazione del Regno. Ritenevano infatti che la nazione, comunità legata dalla stessa individualità storica, coincidesse pienamente con lo Stato, comunità vincolata da una stessa condizione giuridica. La saldatura tra i due concetti di Stato e nazione era data appunto dalla nozione di cittadinanza che, omologando lo status dei singoli appartenenti allo Stato nazionale, risolveva nella completa uniformità dei loro diritti e dei loro doveri ogni possibile ipotesi di differenziazione e di discriminazione fondata su altre ragioni non considerate dall'ordinamento giuridico e al tempo stesso negava ogni possibilità di riconoscimento a quanti per motivi etnici non si sentissero italiani di nazione pur vivendo entro i confini dello Stato. Discorso antico questo, che traeva origine e al tempo stesso fondamento dal modello e dal linguaggio elaborati dalla Francia rivoluzionaria e fatti oggetto di recezione sia sul piano politico che su quello giuridico sin dal triennio giacobino 1796-99 e dal periodo napoleonico 1800-1815. Da quando cioè la cittadinanza era stata eretta condizione essenziale per qualificare il rapporto tra l'individuo e lo Stato e per definire al tempo stesso i diritti e gli obblighi dell'uno e dell'altro, e che, dopo la formazione dello Stato unitario nel 1861, aveva definito l'appartenenza del primo al secondo in termini esclusivamente nazionali. Il risultato di ciò era stato proprio quell'identificazione della cittadinanza con la nazionalità che si era attuata nella Francia della fine del Settecento e che aveva allora implicato la negazione di qualsiasi autonomia nella considerazione del trattamento riservato a quanti non si sentissero francesi nazionalità pur avendone la cittadinanza. E questa identificazione, negatrice nei fatti per l'ordinamento giuridico della stessa esistenza di minoranze nazionali nell'ambito dello Stato, ha costituito la base della regolamentazione adottata in Italia dopo il compimento del Risorgimento e perfezionata con la famosa legge 13 giugno 1912 numero 555 dedicata appunto alla cittadinanza a integrazione e completamento della disciplina fissata in materia dal Codice Civile del 1865. Non mancava però chi con maggiore rigore teoretico e migliore sensibilità giuridica sottolineava come l'intera materia della cittadinanza avesse contenuto sostanzialmente costituzionale e come quindi più rettamente avrebbe dovuto rientrare tra quelle disciplinate nello Statuto del Regno, nella Carta Ottriata emanata nel 1848 da Carlo Alberto per i suoi domini. Ma a parte ogni considerazione sulla derivazione del testo dalle carte francesi del 14 e del 30, che non avevano previsto la disciplina costituzionale della materia, e quindi dal forte condizionamento esercitato da queste su quello, si deve osservare come l'epoca nella quale era stato redatto lo Statuto e la particolare dislocazione geografica dei possessi del re di Sardegna non rendessero allora possibile una diversa e più articolata impostazione del tema della cittadinanza. Non a caso lo Statuto, che pure aveva un titolo dedicato al tema dei diritti e dei doveri del cittadino, nell'illustrarne la portata ricorreva al generico termine di regnicolo, implicante solo la condizione dell'abitazione, o meglio forse della residenza nel territorio del regno, senza ulteriori precisazioni. Nel 48, infatti, lo Statuto non avrebbe potuto utilizzare una normativa più chiara, dato il carattere etnicamente e linguisticamente composito della popolazione dello Stato sabaudo, i cui confini politici erano profondamente differenti dalle frontiere delle aree di popolamento nazionale di uso linguistico dei suoi sudditi, abitanti sia di qua che di là dalle Alpi. Nel 1861, invece, a unificazione statale compiuta e dopo la cessione dei territori abitati da popolazioni francofone di là dalle Alpi, il discorso sulla natura costituzionale della materia relativa alla nazionalità e alla cittadinanza avrebbe potuto essere impostato in modo differente. Ma nel momento del trionfo delle speranze risorgimentali e nell'esaltazione di ideali nazionali che le avevano alimentate, necessariamente scarsa poteva essere l'attenzione alla problematica delle minoranze in uno Stato che si riteneva e che tendeva a giustificare la sua legittimità in nome della compattezza e della uniformità etnica del popolo. Non desta quindi soverchia meraviglia il fatto che anche il maggiore teorico italiano dei diritti della nazionalità, assertore di un nuovo ordine interstatuale fondato su quelle, il Mancini, richiamato adesso dall'amico Paolo Prodi, sia rimasto sostanzialmente estraneo alla problematica delle minoranze, ritenendo evidentemente l'Italia unita a uno Stato nazionalmente omogeneo e i plebisciti popolari che, ratificando le successive annessioni, avevano contribuito a fondarle, prove certe della sua identità etnica. D'altra parte, va osservato come ai confini del Regno d'Italia non esistessero nuclei nazionalmente cospicui diversi da quello italiano dominante per ragioni etniche. Soltanto sulla frontiera orientale, nell'area isontina delimitata dalla Val Natisone, abitava un gruppo piuttosto compatto di sloveni, abbastanza ben integrati nella realtà demica e culturale della Venezia annessa dopo la guerra del 66. L'assenza di sentimenti irredentistici contrari all'Italia e la facilità con la quale questi sloveni accettarono il dominio italiano dopo l'annessione derivavano probabilmente dalla inesistenza, oltre il confine dell'Isonzo, di una patria slava alla quale fare riferimento e dalla quale trarre alimento per eventuali rivendicazioni di carattere nazionale. La sua fazione al contatto con le popolazioni friulane e venete era ormai antica e quindi scarsa era l'attrattiva per la carniola austriaca soggetta alla dominazione asburgica, non ancora molto sviluppata né sul piano economico né su quello culturale e da quei tempi del tutto priva di prospettive autonomistiche sul piano politico a causa anche della politica condotta dalla duplice monarchia nei confronti delle genti slave dell'impero, non assimilate allora in alcun modo ai tedeschi e agli ungheresi e spesso considerate socialmente inferiori a questi. Si può osservare al riguardo, spostando l'attenzione su un piano più generale, come solo l'esistenza di uno Stato abitato dalla stessa etnia o quantomeno di un'entità politicamente ed amministrativamente autonoma nell'ambito di un ordinamento sovranazionale o plurietnico, avrebbe potuto rappresentare naturalmente una forte attrattiva per la minoranza nazionale vivente a ridosso dei loro confini ed avrebbe potuto determinare in essa un atteggiamento di rifiuto o di contestazione del potere politico cui era soggettata, specie quando fossero stati disconosciuti i diritti fondamentali, civili e politici dei suoi componenti. Ma queste condizioni allora non sussistevano per la piccola minoranza slovena, priva di un referente statale proprio al di là della frontiera isontina e per nulla menomata nei suoi diritti dalle leggi italiane che garantivano a tutti i cittadini un identico status, il cui fondamento riposava sulla generale applicazione del principio di eguaglianza. Ed era lo stesso principio che nella coscienza politica e nella dottrina giuridica del tempo giustificava l'assimilazione degli sloveni del Natisone, dei valdostani del Piemonte nord-occidentale, degli albanesi e dei greci dell'Italia meridionale e della Sicilia agli altri italiani, negando ogni valore alla differenziazione etnica e linguistica che ne caratterizzava la cultura o, quantomeno, evitando di trarre delle conseguenze di carattere normativo da quella differenziazione. La stessa caduta per desuetudine dell'applicazione dell'articolo 62 dello Statuto Albertino, che aveva stabilito come regola generale essere la lingua italiana quella ufficiale delle assemblee legislative, consentendo però l'uso della francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è d'uso o in risposta ai medesimi, doveva essere considerata l'indice dell'integrale assimilazione giuridica degli alloglotti, non più differenziabili dagli altri cittadini, specie dopo la cessione alla Francia della Savoia e di Nizza, delle aree in cui più fortemente era sentito il problema dei diritti linguistici delle minoranze. Ma questa assimilazione giuridica degli alloglotti non poteva implicare l'abbandono totale dell'uso e dell'insegnamento della loro lingua e l'imposizione all'opposto di quella nazionale, come proposto talvolta dai più decisi assertori di un'unità nazionale, intesa anche come rigida egemonia culturale, in pieno contrasto con quei principi liberali ai quali si ispirava lo Stato risorgimentale. Se ne ebbe una prova negli anni dell'unificazione, quando, soppresso nella Valle d'Aosta nel 1860 l'insegnamento della lingua francese dopo l'introduzione della legge Casati sull'istruzione pubblica, un ripensamento del potere politico, evidentemente sensibilizzato dalle proteste degli ambienti locali, ne impose la reintroduzione e la regolamentazione secondo un compromesso stipulato tra il Ministero e il Municipio d'Aosta. La Valle d'Aosta era parte integrante del vecchio Piemonte e la lingua francese parlata dai suoi abitanti, unitamente però ad altri idiomi dialettali delle minori vallate circostanti, era stata ed era tuttora anche la lingua d'uso della corte e della classe dirigente subalpina, piuttosto proclive a tutelarla in sede quantomeno scolastica, consapevoli del suo valore di tramite linguistico nei rapporti internazionali e della sua perdurante vasta utilizzazione da parte di taluni strati del ceto intellettuale della regione piemontese. Diversa, invece, la posizione ufficiale del governo nazionale nei confronti di altri gruppi minoritari e delle istanze che questi potevano avanzare per ottenere un qualche riconoscimento dei loro diritti linguistici. Il caso più evidente era quello degli albanesi del Mezzogiorno d'Italia, vera minoranza etnico-linguistica piuttosto omogenea e sicuramente importante dal punto di vista culturale, come attestava il fatto che essa, nel declino civile e intellettuale della originaria madrepatria di là dall'Adriatico, aveva rappresentato spesso una sorta di referente per coloro che erano rimasti nella terra d'origine durante la dura dominazione turca. Il motivo della totale sua integrazione nel contesto della popolazione meridionale e della storia vissuta dagli albanesi in piena sintonia con questa era stato preso evidentemente in considerazione per sostenere l'avvenuta assimilazione della comunità nel tessuto nazionale e quindi della inutilità di un riconoscimento giuridico totale dei suoi diritti linguistici, insieme all'inopportunità dell'introduzione di una rete scolastica differenziata su base linguistica propria. La statalizzazione dell'unica scuola, originariamente funzionante come collegio privato a conduzione religiosa, costituiva la prova più evidente di questo atteggiamento governativo, successivamente criticato e condannato come illiberale proprio a causa del disconoscimento dei diritti linguistici, allora però suffragato in nome di considerazioni egualitarie. Queste vicende dell'insegnamento linguistico dell'idioma usato dagli appartenenti alle minoranze possono apparire di scarsa importanza non soltanto nel contesto della più vasta storia dell'istruzione pubblica in Italia, ma anche, e per i più forse soprattutto, in paragone all'evoluzione dei rapporti civili e politici che si aveva all'inizio della lenta e graduale trasformazione dello Stato da meramente elitario a tendenzialmente democratico. È chiaro infatti che un ordinamento, retto da un ceto dirigente piuttosto ristretto, selezionato attraverso meccanismi elettorali scarsamente partecipativi sia a livello politico sia soltanto amministrativo, era quasi naturalmente portato a disconoscere certe peculiarità e certe difformità etnico-linguistiche, interessanti invece nei loro riflessi pratici prevalentemente o addirittura esclusivamente gli strati subalterni o inferiori della popolazione di aree periferiche e marginali del territorio nazionale. Ben altre parti, infatti, di quella popolazione, considerabili del tutto omogenee al sostrato etnico della popolazione, per essere escluse dai requisiti di capacità e di censo previsti dalle leggi sulla partecipazione politica e amministrativa, restavano al margine della considerazione del potere perché questo potesse distinguere tra i cittadini quelli linguisticamente minoritari da quelli maggioritari, ai fini di fornire loro un trattamento anche scolastico differenziato. Questo trattamento avrebbe rappresentato paradossalmente quasi una violazione del principio di quell'eguaglianza civile al quale si faceva sempre riferimento anche per giustificare le tappe del prossimo passaggio dal liberalismo alla democrazia. Il problema, in buona sostanza, non era quello di dare qualche scuola a valdostani o ad albanesi abitanti nello Stato affinché potessero meglio approfondire la conoscenza della loro lingua madre, quanto invece quello di garantire a tutti gli italiani delle classi più umili un minimo di istruzione primaria affinché cessasse ovunque la triste piaga dell'analfabetismo ereditata dal malgoverno di molti, anzi di quasi tutti gli ordinamenti preunitari e contro la quale da Casati in poi avevano cercato di operare i ministri della vecchia Italia liberale. Lo slogan corrente allora, che individuava il programma politico per la crescita della società italiana e per lo sviluppo in essa della partecipazione popolare, era, come è noto, benessere più cultura, secondo l'indicazione formulata da Silvio Spaventa per il consolidamento delle basi dell'ancora troppo precaria unità nazionale. Per cultura si intendeva evidentemente la diffusione dell'istruzione primaria tra tutti gli italiani, affinché, migliorando nel contempo pure il loro tenore di vita, fossero in grado di apprezzare i benefici dello Stato liberale, contribuendo con la loro partecipazione politica a rafforzarlo nelle sue fondamenta. Tale è l'obiettivo della scuola, quindi, nel disegno politico-pedagogico della destra storica prima e della classe dirigente che l'ha seguita poi nella gestione del potere. Era un obiettivo che successivamente è stato largamente contestato perché, nel pensiero dei critici dello Stato liberale, avrebbe riflesso una visione elitaria della cosa pubblica, affidando alla scuola statale il fine eminente di difendere ogni forma di pluralismo etico-linguistico e a riconoscere alle varietà demiche esistenti nei confini dello Stato spazi di autonomia, perché tutti presi dalla visione nazionalcentrica del Risorgimento e dello Stato che ne era il prodotto. Ma quell'egemonia culturale così contestata in futuro, nell'ideologia ispiratrice dei grandi riformatori della scuola italiana, dai tempi della legge Casati a quella Daneo Credaro, aveva in realtà lo scopo di innalzare l'istruzione pubblica, uniformando a livello più alto le basi intellettuali del popolo cui venivano offerte opportunità di apprendimento sempre crescenti nella lingua dell'intera collettività, entro la quale dovevano riconoscersi tutti, anche quindi gli appartenenti a gruppi demici minoritari dagli idiomi originariamente differenti. In questo modo, il rafforzamento dell'unità nazionale affidato alla scuola come obiettivo essenziale avrebbe operato anche attraverso la diffusione della lingua italiana, unico veicolo di comunicazione idiomatica accettato ed esaltato nello Stato liberale risorgimentale. Agli oppositori di questo disegno politico di unificazione anche linguistica della nazione eretta a Stato, l'azione centralistica in materia scolastica dei governanti liberali appariva vieppiù negatrice dei modi di essere e di vivere delle piccole comunità locali, dalla storia e dalle tradizioni peculiari, riflesse anche nelle culture e negli idiomi particolari. La difesa quindi di questi e la polemica a favore delle lingue tagliate, ovvero di quelle non più oggetto di riconoscimento pubblico, né insegnate nelle scuole comunali per volontà del potere politico, era uno dei molti motivi addotti dai critici dello Stato risorgimentale contro la centralizzazione che questo andava operando a tutti i livelli della vita nazionale. Un motivo che, quasi naturalmente, era largamente usato a scopo polemico anche dal clero delle comunità etnico-linguistiche particolari, allo scopo evidente di mostrare la lontananza ed il distacco del potere politico liberale dal popolo e dalle sue esigenze primarie. Un motivo però che sottendeva anche lo scopo, certamente non confessato, di mantenere unito quel popolo e quelle comunità intorno alla loro Chiesa, presente ed attiva in mezzo ad esse e di fatto unica interprete da secoli delle esigenze e delle necessità dei più deboli. La difesa insieme dell'insegnamento della lingua francese del catechismo contro l'atteggiamento del potere governativo, favorevole all'omologazione totale dell'apprendimento scolastico e all'introduzione dell'italiano come lingua unica di studio nelle scuole comunali, trovava espressione nel grido di battaglia del clero che predicava contro quei liberali che volevano espropriare il popolo valdostano de sa langue e de sa foi. Al di là però della lotta per la conservazione di un idioma particolare, nella protesta del clero era evidente anche un altro motivo, quello cioè della reazione alla modernizzazione che l'unificazione linguistica, corollario dell'unità nazionale, avrebbe prodotto e che la Chiesa locale molto temeva per le conseguenze di ordine sociale che potevano scaturire a danno del suo controllo delle anime dei valligiani, fino a quel momento strettamente legati alle loro parrocchie. L'affermazione del ministro Baccelli, che riconfermava il bilinguismo nell'insegnamento scolastico nella Val d'Aosta, tendeva ad esaltare insieme gli effetti della circolazione di uomini e idee provocati dall'unificazione e più ancora dallo sviluppo economico della nazione, dando il senso effettivo della politica liberale in materia. Per la diffusione della lingua nazionale e per la progressiva riduzione dell'uso degli altri idiomi, egli diceva polemicamente: le strade e il vapore faranno molto più dei professori e dei maestri, consentendo così una volta ancora al mantenimento dell'insegnamento scolastico del francese nelle scuole primarie accanto a quello dell'italiano. Tale quindi il programma ed il comportamento dei governanti dell'Italia liberale in materia linguistica. Scarso favore nei confronti delle lingue e degli idiomi locali e massima attenzione, nei limiti degli strumenti scolastici e dei mezzi finanziari di allora, alla diffusione dell'uso della lingua italiana, unica riconosciuta ed esaltata come veicolo di comunicazione intersubiettivo tra i cittadini del Regno nei loro rapporti civili, anche in funzione della maggiore integrazione della popolazione e delle sue prospettive di crescita e di progresso in uno Stato fortemente centralizzato, avversario deciso di ogni particolarismo e di ogni regionalismo o localismo che ne minasse o ne negasse l'unità. A quel programma e a quel comportamento si ispirò sempre la classe dirigente liberale fino alla Prima Guerra Mondiale, senza eccessive nostalgie per autonomie contestate o per lingue tagliate, consapevole anzi all'opposto del valore unificante dell'accentramento e del ruolo aggregante del monolinguismo in uno Stato-nazione nel quale, tutto sommato, i problemi delle minoranze etnico-linguistiche si erano rivelati di scarso rilievo. Forse anche perché l'uso estremamente vasto dei dialetti locali da parte dei più sembrava attutire e quasi neutralizzare la condizione minoritaria di chi aveva una lingua madre differente dall'italiano, idioma ufficiale di una maggioranza solo numericamente considerabile come utente abituale di esso ed invece ricorrente nei suoi rapporti ai molti dialetti della penisola. Fu comunque il conflitto, con la sua lunga durata e le sue grandi conseguenze, a modificare tutti i termini della questione, sia per il coinvolgimento dell'intera popolazione dello Stato, sia per il mutamento dei confini endemici e territoriali che questo provocò. All'interno del Paese, infatti, la guerra favorì, col movimento di popolazione provocato dalla mobilitazione generale sia militare sia industriale, la realizzazione di un maggiore amalgama ed una migliore integrazione tra le diverse componenti della nazione. Coloro che fino a quel momento erano vissuti, se non del tutto isolati nel loro ambiente nativo, almeno piuttosto scarsamente a contatto degli abitanti di altre aree civili e culturali, finirono col convivere insieme a questi nell'esercito e nelle industrie per lunghi anni, lontani dai luoghi d'origine e dal piccolo ambiente che avevano fino allora conosciuto. Lo spostamento di milioni di persone verso le aree nord-orientali del paese, la loro immissione in reparti militari compositi dal punto di vista delle regioni d'appartenenza degli uomini che vi erano aggregati, la comunanza di vita, di bisogni, di interessi, di speranze e di paure che si realizzava in quei reparti, erano altrettanti motivi di integrazione, anche se forzata, di persone che prima apparivano chiuse nel loro piccolo ambiente e che ora venivano a conoscere un mondo civile estremamente più vasto e diversificato. Se per taluni ciò poteva apparire traumatico, per il lungo distacco dal luogo dove erano nati e vissuti e per la separazione dalle persone ad essi per mentalità, abitudini, idioma e tradizioni più vicine, per altri e forse per i più, ciò significava invece, pur nelle difficoltà e nei limiti imposti dalle circostanze del momento, una prima effettiva occasione di integrazione in un ambiente più vasto. L'accettazione di quella somma di sentimenti ed insieme di vincoli di natura collettiva che individuavano la presa di coscienza di un destino comune a tutti i partecipanti allo sforzo bellico. Gli alpini originari dalla Val d'Aosta e dal Natisone, i fanti dei paesi greco-albanesi del sud, unitamente agli altri soldati delle regioni più lontane ed isolate, vivevano così quel processo di assimilazione forzata che la guerra, terribile livellatrice, provocava nel tessuto umano della nazione. ed anche gli altri, uomini e donne, che la mobilitazione industriale impiegava nell'industria di guerra, venivano coinvolti in un processo simile, anche se non identico, di nazionalizzazione e di più ampia socializzazione, processo che fatalmente portava all'allentamento o anche alla caduta di certi vincoli, originariamente sentiti come costitutivi del modo di essere e di vivere delle antiche comunità di appartenenza. Ma la guerra, conclusasi vittoriosamente con le annessioni, modificava anche il quadro etnico della nazione, inglobandovi popolazioni di nazionalità e di lingua del tutto differente, per nulla abituate alla convivenza con gli italiani di uno Stato ove la tematica delle minoranze era del tutto estranea. E se lo Stato liberale, forte del suo successo bellico, riteneva di poter risolvere il problema della convivenza interetnica sulla frontiera settentrionale con i tedeschi dell'Alto Adige e su quella orientale con gli sloveni e con i croati della Venezia Giulia, riconoscendo taluni spazi di autonomia linguistica ed amministrativa ad essi, e lo provava l'atteggiamento dei primi suoi rappresentanti militari e civili preposti al governo delle nuove province, il regime fascista mutò tragicamente assetteggiamento, operando con una visione totalmente centralistica e livellatrice e procedendo alla italianizzazione forzata di quelle, cercando di snazionalizzarne i caratteri originari. Il timore che la forza d'attrazione dell'Austria e della Germania creasse un irredentismo altoatesino di marca separatista e che gli sloveni e i croati oltre l'Isonzo e in Istria trovassero quel referente politico per le proprie rivendicazioni nazionali nella nuova Jugoslavia che in passato era loro del tutto mancato, indusse il fascismo a una politica repressiva verso quelle minoranze, creando con i propri gravi errori di comportamento problemi difficili di convivenza nelle province annesse ed alimentando quelle aspirazioni separatiste che esploderanno dopo la Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta italiana. Ma questa è un'altra storia. Grazie. Grazie davvero a Ghisalberti per questo quadro della posizione di partenza, diciamo così, sì, dell'Italia. Ecco. Appunto, perché la cosa più importante è il quadro di partenza con cui l'Italia si affaccia a questo periodo inframellico, diciamo, del problema delle minoranze. Impreparata, scusa. Credo che dal quadro italiano di Ghisalberti siano derivati veramente degli spunti estremamente importanti, però anche su un piano più generale, insomma, ecco. Il problema della lingua è fondamentale, protagonista, insomma, ecco. E appunto la lingua come fattore di, la nazionale come fattore di modernizzazione, di qui appunto il superamento di quegli slogan o di quelle concezioni superficiali che non ci permettono di vedere in un certo tipo di politica come quelle centralizzatori, centralizzatrici dell'Italia liberale, questo tipo di necessità di modernizzazione. Quindi la relazione è stata molto interessante proprio anche per metterci in guardia contro la proiezione di certi nostri modi di pensare attuali, insomma, al periodo che attualmente stiamo prendendo in esame.